2, quattro relazioni con alcuni nodi preliminari. La relazione è un estratto di un più ampio studio sul trattato dei disciplini di Bacolo da Santa Paracca, che comprende il tempo quale la sua accezione testuale, le circostanze della sua composizione, i rapporti tra il trattato e il resto dell'opera di Bacolo, e la sua riflessione dal 300 ai nostri giorni. Questo studio è frutto di un comune progetto di ricerca tra Valo Cavallà, autore di un recente volume su Francesco Giardini, e che attualmente sta completando la sua recitazione all'Università di Chicago, Susan Devin, un laureato in diritto dell'Università di Heidelberg, e attualmente è candidato al dottorato di storia medievale all'Università di Chicago. È il più sottoscritto. Ciò che desidero duramente sottolineare è questo. Sebbene il compito di presentare questa relazione ricada solo sulle mie spalle, non di meno vorrei riconoscere questo più sostanziale rapporto dei miei coattori. Il trattato dei Signi di Bartolo è generalmente ritenuto tra i più popolari e influenti per tanti bartoliani. Questo, indubbiamente, dipende dalla fama internazionale di questa rivista e dal suo innovativo e attrattivo trattamento delle armi e insegne, un tema centrale per l'ordinamento delle aristocrazie ereditarie dal tardo medioevo in poi. Maurice Keene, un illustre storico della cavalleria medievale, vede in questo trattato la prima lotta per l'invasione dell'araldica. Eppure venne di noto il precoce trattamento del lusso, proprietà e trasmissione dei marchi di fabbrica. Accanto a queste novità, il trattato ha svolto pure un notevole ruolo nella stesura della biografia di Bartolo. Fornisce infatti una testimonianza chiara e universalmente accettata nozione che nel 1355 l'imperatore Carlo IV abbia concesso a Bartolo le armi, un segno non solo del favore imperiale, ma anche della preeminenza di Bartolo tra i giuristi. Costituisce inoltre l'unica fonte per la ripetuta dissertazione che Bartolo abbia studiato ebraico, un risultato di notevole portata intellettuale, essendo pari tra i giuristi del Medioevo. Infine esso rimane la sola base. Trattato la sola base per attribuire a Bartolo un interesse professionale in materia d'ottica. Sebbene De Insignis sia rimasto incompiuto al momento della morte di Bartolo, 1357, esso fu pubblicato nel gennaio dell'anno seguente a cura di Nicola Alessandri, cognato di Bartolo e civilisti che gli succedette nella cattedra di diritto all'Università di Perugia. Il testo del trattato è trasmesso in più di un centinaio di manoscritti e venne stampato nella prima edizione delle opere di Bartolo, 1472. Venne tradotto in lingua spagnola nel XVI secolo e ripubblicato e tradotto in tedesco verso la fine dell'Ottocento da Felix Hauptmann. Evan John Jones ne curò un'edizione più perfetta ma utile, pubblicata in questo secolo, in 1943. Lasciando a parte il numero di manoscritti e edizioni a stampa, il trattato divenne una fonte autoritativa per molti dei susseguenti trattati da Raudita ed ancora citato in recenti pubblicazioni ancora negli Stati Uniti. Troviamo le parole di Bartolo epigiare lungo i secoli, scrive propriamente Rodney James, citato a proposito e sproposito, di solito senza nominare la fonte di un trattato e un trattato dopo l'altro. Come tutti gli studiosi dell'umanesimo ben conoscono, la accezione accordata per data non fu uniformemente favorevole. Lorenzo Valla sottopose trattato una tanto feroce quanto autosaltante critica in una lettera del 1433, originalmente indirizzata a Platone Sacco, un giurista pavese, di simpatia umanistica, ma poi più diretta a Pier Candido Decembrio, egli, questo Valla, accusò Bartolo del crimine di lesa grammatica. Chiamò Bartolo con gli epiteti di asin, idiota e matto. Si fece beffe dello stilo latino perché è inferiore, asserendo, ad esempio, che la forma insignis anziché insignibus era grammaticalmente incorretta, un segno della manifesta ignoranza del giurista. Ridicolizzo ciò che è di tenere in banale argomenti contenuti nella seconda parte del trattato, che tratta principalmente questioni d'ottica. Questa inventiva diviene il punto di riferimento per tutti i depositori del Mos Italicus, François Babel incluso. Nel non lontano, questo secolo, tanto dopo, lo storico dell'arte Michael Baxendorf decantava l'inventiva di Valla come la più eloquente espressione letteraria ridotta dalla sosta gerarchia araldica del colore, pomposamente esposta dal Bartolo. Molto seguito Valla in questo secolo. Studiosi moderni, pure, sono giunti a contrastanti notazioni circa l'importanza del trattato. Storici dell'araldica che ne propongono una valutazione positiva come Vladi, Zucci e Pascolo. Sottolineiamo che Bartolo fu il primo a sviluppare in modo programmatico dei principi legali per un nuovo fenomeno degli stemmi araldici, ponendo così i fondamenti dell'araldica come scienza. Sogoloni e Walter elogiano il trattato per aver introdotto la perspectiva naturalis nel discorso giuridico. Hoffmann, d'altro canto, desimava Bartolo per la sua aderenza alla ratio scritta del diritto romano e per l'erronea applicazione di principi romanistici ad un fenomeno non romano quale araldica. Scrivendo verso la fine del XIX secolo, quando la nobiltà come classe ancora prosperava in Germania, Hauptmann invitava gli studiosi a prestare maggiore attenzione alle loro origini germaniche araldica. Questo approccio ha lo svantaggio di porre in secondo piano il carattere pubblico dell'araldica, vale a dire la questione di chi possa portare armi e insegne. Dupré de Saigue pure manifestava insoddisfazione in quanto Bartolo avrebbe trascurato di considerare gli stemmi delle città che, come questo studioso ha ben mostrato, non erano cifre di una perduta autorità o funzione, ma un potente linguaggio semiantico, cioè, che può rivelare molto sulla cultura politica della città-stato italiana. Questa missione, che lascia un po' perplessi, potrebbe non essere stata intenzionale, come Dupré lascia intendere, ma piuttosto il risultato dell'inabilità di Bartolo di completare un suo trattato. In ogni modo, scegliere Bartolo come oggetto di critica è fuori bianchi, perché il primo trattamento non lancio di Dupré-Tessier applicato nell'anno 66. Dato il ruolo segnale, anche se contestato, svolto da Bartolo, dalla formazione dello scienze dell'Africa, è sorprendente che non sia ancora apparsa alcuna edizione critica e traduzione moderna di questo testo, per non parlare di una sua analisi. Per un periodo di tempo troppo lungo, cosa deplorevole, Ludens Signis è stato monopolizzato da retrospettive e menzione e tediose nullità di esperti araldica, che hanno lasciato completamente in ombra il creativo mondo della città-stato italiana. Proprio quel mondo che ha permesso e determinato la grammatica dei segni di Bartolo. Lo scopo principale di questa nostra ricerca è quello di citare come armi e insegne vengono costruite come fenomeno legale da Bartolo e da altri giuristi notati medioevo e rinascimento. Vorremmo sottolineare come la caratteristica più originale e durevole di questo trattato sia la creazione di una grammatica dei segni. Bartolo fu il primo giurista a proporre dei principi derivanti dal diritto romano e dai diritti locali, intesi a regolamentare l'assunzione, la protezione e la trasmissione di un universo di segni che si estendono dalle armi ai marchi di fabbrica. Similmente, gli storici del diritto si sono mostrati molto più che ben disposti a affidarsi a questo trattato come fonte per la biografia di Bartolo. Una fiducia questa che, mentre ha idealizzato la figura di Bartolo, ha distorto la relazione tra la vita e l'opera. Il nostro studio chiarifica il rapporto tra vita e opera attraverso un riesame del materiale autobiografico contenuto nel Ludens Signis, come pure la traduzione che ha accreditato Bartolo come il solo attore del trattato e lo ha reso responsabile del suo intero contenuto. Tentiamo pure di indicare fino a che punto Nicola Alessandri sia appropriato dall'opera che Bartolo lasciò incompiuta al momento della morte e l'abbia trasformata. Questo ci conduce a esaminare le posizioni del trattato materia araldica e altri segni, situandole sullo sfondo dell'universo intellettuale e sociale, in cui Bartolo operava su quello dei suoi commentari e su quello del jus commune. Nella forma in cui ci è pervenuto il trattato è diviso in due parti, nettamente distinte e incompatibili. La prima parte tratta questioni legali, relative a portare armi e insegne, un argomento che si connette agli altri tanti trattati che hanno come principale oggetto la città-stato. Riassumendo una lunga e intricata argomentazione, riteniamo che Bartolo sia principalmente responsabile tanto per l'organizzazione quanto per le questioni comprese nella prima parte del trattato. Crediamo pure che sia stato molto probabilmente Nicola, coniato di Bartolo, colui che inserì il riferimento alla concessione imperiale delle armi a Bartolo. Un fatto questo che non ebbe luogo. Questo segno imperiale si chiama in linguaggio tedesco Cheskille, è questo un leone con due code, e si trova dappertutto nella Repubblica Ceca. La seconda parte del trattato concerne l'esecuzione materiale e la decodificazione di armi e insegni. Ci sembra altamente probabile che Bartolo abbia concepito questa parte, il che hanno approdato a questa parte dell'opera. Crediamo pure che Nicola sia il principale responsabile di questa parte, che egli rafforzò da varie fonti non legali. Inoltre, la seconda parte, che in questa sede non intendo affrontare, è consistentemente aliena al discorso giuridico, anzi si legge come un convenzionale trattato medievale d'ottica, se non come un manuale per tutori, il che spiega come questa parte abbia sollecitato l'interesse degli esperti per altre. Allora, prima parte. Quando compose il suo trattato, Bartolo non affrontava un oscuro fenomeno, ma entrava in un territorio di segni visibili che dominavano la vita quotidiana della città-stato italiana. Un'innovazione estremamente ricca di conseguenze dell'intensità fu la divisione dell'intero reame delle insegne in tre categorie. Primo, quelle che appartenevano ad un ufficio, quale le insegne dei vescovi. Secondo, quelle che potevano essere concesse da tre terzi, pretore oppure principe. E terzo, quelle che privati potevano assumere di propria iniziativa. Questa è la framework architettura. Bartolo apre dunque la propria indagine, chiedendosi chi possa portare le insegne proprie di un ufficio. Per rispondere a questa domanda, egli si rivolge al rito romano e cita l'ex proconsul ubique e poi l'ex santo mestre. La prima legge stabilisce che il proconsole può cominciare a portare i segni onorifici del proprio ufficio dal momento della sua partenza da Roma. La seconda legge si riferisce ai legati che portavano una speciale fascia verde per significare la loro immunità. In entrambi i casi le insegne erano legati indossabilmente all'ufficio. Ogni altra persona non investita da alcuno di questi uffici che non avesse fatto uso era colpevole di assunzione fraudolente d'ufficio. Bartolo apre la propria analisi riferendosi a questi insegni di grano perché erano esempi conosciuti dall'antichità e vennero inseriti nel Corpus Juris Civilis. Si deve notare che queste insignia romane non erano propriamente armi, ma piuttosto status symbol, come il diritto di portare fasce in fronte ad un magistrato, di sedere sulla sella curulis, o di portare la toga tra testa. Questi erano i soli esempi rintracciabili nel diritto romano di usi che si avvicinavano alla prassi medievale del portare armi. Per quanto riguarda gli esempi di insegni pertenenti all'ufficio, l'unico esempio che Bartolo propone è quello delle insegne di vescovi, un caso ovviamente discusso dai canonisti. Nel Medioevo, segni connessi a un specifico ufficio o rango erano sinonimi, ma molto meno comune che in antichità. In Germania, alcuni uffici di corti permettavano al dentore dell'ufficio, ad esempio a Senecalchi, a Cimberlani, di portare uno specifico stemma araldico simbolizzante l'ufficio. Questo stemma era solitamente raffigurato su di un scudo rosso posto nel mezzo dello stemma di famiglia. Poiché questi uffici erano ereditari, questi stemmi araldici di dignità non equivalgono al concetto romano di certi insegni pertenenti ad un ufficio. È dunque comprensibile che Bartolo non si soffermi a lungo sui passi del digesto relativi a, alle insegne pertinenti all'ufficio. Nel suo commentario, il passo relativo alle insegne del proconsole, nel quello relativo alla pena per l'assunzione fraudolenta d'ufficio, Bartolo discute il tema delle insegne. La sola preoccupazione della giurisdizione delle proconsole dell'assunzione dei privilegi concessi all'ufficio. Non è dove meglio ego, un vero parallelo con i segni di rango dell'antichità, sia solo nel caso insegni di dottorato, a cui Bartolo accenna in chiusura del primo capitolo di questo trattato. Sebbene egli non elabori l'argomento degli insegni del dottorato, che significano un certo rango o ufficio, non trasmissibile per eredità, Bartolo aveva considerato i segni visivi pertenenti alla dignità del dottorato nel suo calendario. Le insegne del dottor, comprendevano l'anello libro aperta. Il dottorato conferiva precedenza su altre persone. Ad ogni dottore era concesso di portare uno stemma di cui il portatore stesso e la sua famiglia non potevano esserne privati. Dopo essere stato dottore, dottor Legens, per un periodo di 20 anni, uno veniva automaticamente elevato alla dignità di conte, completando l'energia tra dottorato e insegne di rango. Bartolo osserva che colui che porta le insegne del dottorato senza possedere questa dignità è colpevole del crimine di pazzi. Se si avvantaggia dell'immunità fiscale e degli altri privilegi solitamente concessi al dottore. Ritornando sull'argomento delle insegne vere e proprie, Bartolo asserisce che nessuno può dipingere o porre su oggetto in proprio possesso le armi di un ufficiale di grado superiore, ad esempio di un re o un altro potente. Egli corrobora questa posizione citando l'ex anima Termus, né anche né Cusvela, due leggi che stipulano che nessuno possa usare nomi, titoli, di grado reali, sotto pena della perdita o confisca dell'oggetto in cui questi simboli vengono affissi. Scrivendo nel XIV secolo, Bartolo intende questi testi in categorie contemporanee e in riferimento alla dignità di un ufficio e ai suoi privilegi. Più importante, tuttavia, pare la sostituzione che egli opera del termine bella regia o bella regia con quello di arma, perché le armi erano considerate come elemento costitutivo della dignità di un ufficio. Bartolo restringe la proibizione di portare le armi di un superiore a casi in cui il portatore ne faccia uso come elemento principale. Accetta però la legittimità di portarne la arma come segno di sottomissione, cioè quando le armi del superiore fungono da elemento accessorio, come dice, nello stemma del portante. Sebbene provvede una giustificazione per questa distinzione, è da ritenere che Bartolo abbia avuto in mente una prassi medievale comune. In Germania, l'emergente classe dei funzionari ministeriali solleva portare le armi del proprio superiore. E questo spiega come mai molte famiglie nobili, le cui origini risalgono proprio a questa relazione, tra funzionari e superiori siano venute a portare le proprie stelle l'Aquila dell'impero. In Italia era prassi comune dipingere in capo allo stemma di famiglia le armi del proprio superiore come espressione di lealtà, o per significare che la detenzione di un particolare ufficio dipendeva dal superiore, come si può osservare nel caso dei vicariati papale e imperiale. Sebbene Bacco non discuta l'autorità delle città di concedere armi, egli riconosce la loro capacità di conferire onore e nobiltà. Indubbiamente egli avrebbe pure ammesso il loro diritto di concedere armi, proprio come l'imperatore lo esercita ogni altro dominio. E questo perché, se non altro, egli riconosce la città-stato come libere e indipendenti entità politiche, civitas libri interi. Solitamente le città soggette erano coatte ad assumere le armi della dominante o almeno dell'ente caratteristico della stemma della dominante. Un caso frequentemente citato è la concessione nel 1332 delle armi fiorentine alla città di Trenzuola. In questo modo Giglio e il leone fiorentino vennero inseriti negli schemi di località che si sottomisero al superiore giurisdizione di Firenze. Similmente, una rappresentazione della Bazzana, la bandiera recante la insegna di Siena, venne incorporata negli schemi di località dipendenti. Era pura prassi assai comune nella città soggette e dominanti onorare i magistrati stranieri con la concessione del proprio armi al momento del completamento del loro ufficio. Nel 1279, ad esempio, Rieti concesse al proprio capitano del popolo il diritto di portare le armi della città. Gli statuti di Firenze pretendevano la concessione delle armi cittadine ad un magistrato straniero. A sua volta il patrizio fiorentino Lapo Nicolini ricevette le armi da due dipendenti da differenti, Pistoia, come egli era podestà, e da Vico Pisano, come egli era governatore al momento della morte nel 1430. Entrambi queste armi vennero mente esposte al suo funerale. Nel XV secolo singoli elementi delle insegne della casa d'Este Ferrara erano abitualmente concessi al podestà di Ferrara, ad altri ufficiali e condottiero. Relativamente a materia di protocollo, Bartolo ritiene vantaggioso di ricevere le armi dal principe, come il testamento fuori al principe a maggior prestigio, così la concessione principesca conferisce maggiore dignità. Questa concessione determina pure il diritto di portare le armi in quanto portatore non può essere precluso da usare le armi da parte di altre persone. Nel caso di due militi aventi le medesime armi e di uguale grado, le armi concesse dal principe avevano la precedenza. Qualora vi fossero dubbi certi la precedenza tra due persone aventi le medesime armi e non fosse chiaro chi le avesse ricevute prima e chi poi, Bartolo sostiene che le armi concesse dal principe hanno precedenza. Era dunque in Lano, è un studioso, quando realizza queste concessioni da parte del principe una sorta del meccanismo di registrazione. Il meccanismo di registrazione comporta o meno l'esistenza di un registro ufficiale in cui iscrivere le concessioni allo scopo di tutelare e proteggere gli utenti. Nel caso del web troviamo genuini esempi di questo meccanismo di registrazione, come nello stesso citato caso di Firenze e nel caso di Inghilterra e della Francia, ove i collegi araldici mantenevano registri ufficiali delle concessioni. Gli araldi con i loro occasional e ordinary roles non sono dei meccanismi per l'Inghilterra, non sono dei meccanismi di registrazione, ma piuttosto degli aiuti mnemonici. D'altra parte, per quanto concerne le arti, simili registri esistavano, erano curati generalmente dalle arti stesse e riportavano i diversi segni usati dagli iscritti. Sebbene la concessione delle armi da parte del principe non ammontasse mai ad un meccanismo di registrazione, la sua importanza da più profilo pubblico di queste concessioni non è da sottovalutare. In aggiunta alla concessione, il principe solleva consegnare un documento in cui le armi venivano descritte dettagliatamente. I vantaggi di questo documento erano tenuti in tanta considerazione le famiglie d'antica nobiltà che asserivano di possedere armi da tempo immemorabile, ne richiesero il riconoscimento all'imperatore per documentare propriamente i propri privilegi. In seguito, Bartolo passò a considerare le armi di persone private come distinte da quelle pertenenti ad un ufficio o da quelle concesse dal principe. Indubbiamente, uno che avesse ricevuto una concessione da parte dell'imperatore o principe poteva portare legittimamente tale arma, ma meno chiara e fosse apparentemente contraddittoria. Sempre la posizione di Bartolo certa la questione se uno possa portare armi senza concessione da parte del superiore. Per un verso, quando argomenta che se qualcosa è proibito senza l'autorizzazione del giudice, la medesima cosa è senz'altro concessa quando dia sia la sua autorizzazione, e gli sembra ritenere che senza concessione non si possono portare armi. Di conseguenza, egli appare suggerire che senza concessione superiore non si possono portare armi. Questo tuttavia contraddice quanto egli asserisce subito dopo, cioè che ognuno, e questo è l'argomento più principale che ha dato, che ognuno può assumere armi di propria iniziativa e che queste possono essere riprodotte su oggetti in proprio possesso. Questo ultimo punto era già stato avanzato dalla grossa denaria a codice, il che ci fa ricordare che nel Medioevo era consenso sul fatto che una persona potesse porre le proprie insegne in oggetti che gli appartengono. Bartolo è un celebre passo, pone sul medesimo piano l'assunzione delle armi e quella del nome. Commentando sul Lex Falsi Nominis, sostiene che ognuno può liberamente e legittimamente mutare il proprio nome, ad esempio in occasione di una mutazione nello stato sociale, quale l'operato o il cavalierato. L'assunzione invece di un nuovo nome a scopo di frode era un crimine molto più grave. Bartolo applica questo principio alla fraudolenta su trasmissione delle armi. La sua dottrina non diparte appunto dalla tradizione e si fonda sul codice Deutero, c'è qualche legge nel codice cristiano, sulla borsa ordinaria, anche i commentari dei predecessori. Paolo, temendo che la dottrina di Bartolo possa aprire la strada al doppio gioco, asserisce che ogni mutamento di nome dopo il battesimo indica frode. È molto contrario a Bartolo in questo punto. E per Paolo, se qualcuno vuole mutare sul nome dopo il battesimo, indica frode. Questa inflessibile posizione era in linea di Paolo è in linea con la politica perseguita da città-stato come Bologna, Ascoli, Piceno, Carrara, che operavano in base alla presunzione che ogni mutamento di nome ha sapore di frode, se lo contrario non viene provato. Stabilirono delle norme che regolamente la mutazione del nome dei loro cittadini. In Italia la distinzione tra la classe cavalleresca ed altre persone non fu mai così radicata come operava, e questa è una cosa molto banale ma anche molto importante, ove le armi erano considerate come ornamento della nobiltà. Valle e i suoi contemporanei erano vagamente consapevoli dell'interdipendenza tra armi e nobiltà. In questo essi riflettono il fenomeno tanto medievale di una continua e progressiva, specialmente in Italia, estensione delle armi attraverso tutto lo spettro sociale, un'estensione che aveva appiattito la distinzione tra arma nobilium del popolare. Nel XII secolo l'uso delle armi si stende alla città, nel XIII secolo a funzionari ministeriali e nel XIV ai ebrei e ai contadini. Questi parvenuti erano il bersaglio della novella di Franco Sacchetti, il famoso scrittore dopo Boccaccio, Firenze, che parodiava un uomo di piccolo affare, con pretese aristocratiche, il quale aveva chiesto a Giotto, pittore, di tingere le proprie armi su di uno scudo. Con maggior frequenza le armi divennero un potente mezzo visivo con cui proclamare l'onore di casa nostra e un segno della nostra antichità. Si trova queste parole spesa nella ricordanza di Carlo di Duello. Armi di famiglia portate da persone con esse alla casa attestavano della sua grande reputazione e della lealtà che essa comandava. Viceversa, la degradazione delle armi veniva intesa come una degradazione della casa stessa. Questo accadeva quando una famiglia si fosse resa colpevole del crimen lese maestatis. La pena in questi casi era la cancellazione e la suppressione delle armi, come accade ai pazzi dopo la infruttuosa congiura con loro di medici. Le armi figuravano prominentemente durante le cerimonie, le processioni, il matrimonio e il funerale, come segno decorativo, ornava ogni concepibile oggetto, dai vestiti ai libri, ai palazzi. Francesco Di Marco Datini, il Prato, il predatore famoso, figlio di un povero oste che divenne un principesco mercante, non solo fece fuori le proprie insegne su scudi, paramenti sugli archi delle porte, ma anche sui piatti, forchetti, cortino del letto, anche altre cose, inclusi i arredi, capi e gli affreschi che presento alla Chiesa. Le armi venivano dipinte, scolpite, uccise su pietre, tombate, pale d'altare, arezza, vetrate, freschi, colonne e capitale, e capitelli, i pavimenti, i mosaici, e in ogni sorta di combinazione architettonica. La domanda per l'esecuzione materiale delle armi teneva parte le botteghe dei sacchi e degli armaiuoli, e anche quelli artisti come Luca Dalla Robbia, Neri di Vici, Desiderio di Settignano, da Settignano e da Montello. Le armi prodotte dalla bottega di Luca Dalla Robbia per le ricche famiglie fiorentine si possono ammirare ancora oggi su portoni, in sale di palazzi urbani e di ville. In reazione a questa diffusa appropriazione delle armi da parte di non nobili, vi furono sporadici tentativi di controllarne l'uso. Nel 1320, gli statuti di Pisa vi accadono che nessun popolare può supportare le armi di un cittadino nobile se non le armi portate per i pesati vent'anni. Come professore di diritto a Pisa e come giudice della podestà di Pisa, Bartolo era senz'altro conoscente di questa e di simile disposizione. Per quanto abbiamo potuto osservare, l'impiego dell'esenzione di armi venne proibita l'impiego delle armi non era soggetto alla registrazione proprio della legislazione sumptuaria. In Inghilterra la libera assunzione d'armi venne proibita nel 1417, è ancora in vigore. In Francia l'apparato che circondava la concessione dell'armi venne istituzionalizzato nel 1407, quando Carlo VII fondò il Collegio Arabico. Bartolo fu fortemente criticato per il suo indiscutibile appoggio alla teoria della libera funzione delle armi. In nessun passo del De Insignis si può trovare una distinzione tra nobili, che hanno sempre il diritto di assumere armi, e non nobili, che possono portare armi soltanto per concessione del superiore. La violenta reazione alla teoria bartoliana è sintomatica della progressiva contenzione della funzione delle armi come ornamento della nobiltà e deve essere intesa come una reazione alla democratizzazione del loro uso proposto da Bartolo. Dopo 1450, stando a quanto inseriscono Borge e Campigardi, i termini stemmi anziché armi comincia ad essere impiegato da nobiltà, che non questa scelta lessicale intendeva distinguere armi nobili e non nobili. Dato la progressiva diffusione delle armi, la forzata dalla dottrina bartoliana della loro libera funzione. Il solo possesso di uno stemma arabico non viene mai ritenuto una prova convincente della volontà di un pesato. Dopo aver avvisato che abbiano il diritto di assumere armi, quanto fatto considerare la questione chiave della loro protezione contro possibili abusi. Egli ritiene che più persone possono portare le medesime armi e sostiene la sua tesi ricorrendo all'analogia del nome. Come lo stesso nome può essere usato da diverse persone, come il famoso caso di Niccolò di Bernardo Machiavelli, fa, c'è un studioso che ha scritto un libro su non è un altro maschio, ma come fatto il suo rispetto. Come lo stesso nome può essere usato da diverse persone, così nel caso delle armi, il loro uso delle armi è uno dei temi principali sviluppati nel trattato dei simili. Nel delitto romano, Bartolo ritrova alcuni passaggi che incidentalmente lamentano un caso in cui diverse persone hanno lo stesso nome. Se ben nessuno di questi passaggi riproposi toccare la questione se sia lecito il portare il medesimo nome, le mani di Bartolo essi divengono autoritativi esempi di questa frase. Se andiamo a vedere quanto Bartolo scrisse commentando questi passaggi, notiamo che egli non aveva contato tutti questi testi, che aveva affrontato questione come costruzione di una prova legale in caso di doppio uso del nome. In questo, se sia lecito a due persone portare lo stesso nome è tipico del pensiero. Un argomento che poteva essere introdotto a contrastare il libro Soluzione delle armi partiva dalla considerazione delle armi come qualcosa di nostro e che quindi può essere usato da altri credo il nostro consenso. L'argomento di Dante ha digesto. Bartolo risolve questa obiezione dicendo a Lexi in certo luogo, un passo su cui si era soffermato ovviamente nel proprio commentario. Solitamente dice Bartolo, due persone non possono scegliere simultaneamente la medesima cosa. Ma questo nome, egli prosegue, non si applica ai luoghi pubblici, come le piazze, i bagni e i teatri. Anche in questo caso, l'uso è comune a diverse persone simultaneamente. E l'uso di questi luoghi pubblici da parte di altri non diminuisce, appunto, il mio diritto d'uso. Questa argomentazione pone una questione di come si possa costruire giuridicamente il sistema delle armi e delle insegne. Poiché Bartolo si preferisce al contrario di incomodato, si può mandare l'intera costruzione proprio su questo contratto. E lui è questo molto interessante, ma molto tecnico. Ma la cosa più importante di Bartolo è che lui, Bartolo, fu il primo giurista che applicò l'obiezione del diritto romano all'uso delle armi. In seguito queste istituzioni divennero un luogo comune nella lettera giuridica. So, in ogni in qualche parola, tutti possono usare le medesime armi, senza quando se quando c'è un doppio uso crea un scandalo, in presenza della popolazione è pesato sul diritto romano e lui dice no. Ma lui è il primo scrittore, il giurista, che ha fatto la canna tra il diritto romano e il costume, il mossicato. La capacità di criticare in equivocabilmente le persone dalle loro armi è di certo desiderabile e di pubblico interesse. E lui usa questa termine public interest, molto interessante questa parola interesse. Perché non è di vero interesse, vuol dire compenso, danno, eccetera. E in questo trattato usava il senso public interest, come common good, per rimediare agli inconvenienti derivanti dall'uso promiscuo di questi segni, città con interesse, istituirono dei vecchi ufficiali delle armi e insegni. piccolo interesse in forma pure la produzione attuata dal comune di Pisa, 1286, circa il doppio uso dei nomi. Quando Dalton sosteneva la possibilità di produrre il doppio uso delle armi, egli aveva di mira l'interesse pubblico. A questo proposito, egli narra un episodio destinato a divenire popolare, quello ciò che il cavaliere tedesco che in un rinascio a Roma trovò un italiano che portava le stesse armi. In una simile circostanza, Bacco asserisce: il cavaliere tedesco non può accampare alcun legittimo interesse per impedire all'altro di portare le medesime armi. La distanza tra rispettivi domicili costituisce per Bartolo un elemento sufficiente a prevenire danni derivanti dalla similarità delle armi. Inoltre Bartolo oppone l'assunzione delle medesime armi nel caso in cui la vita è in comunità del primo portatore possono essere messe in pericolo. Di regola, la capacità di ereditare le armi dipendeva dalla legittimità dei natali. Per Bartolo, tutti i discendenti legittimi e agnati hanno il diritto di portare le armi di famiglia. I padri, inoltre, non possono con disposizione testamentaria prevenire figli da ereditare le armi di famiglia. Ma il diritto dei figli di portare armi non dipendeva solo da essere erede. I figli nati fuori dal vincolo matrimoniale, sia bastardi che spuri, non appartenevano né alla casa né al gruppo degli meglio italiano, in latino, agnati, e conclude il fatto non sono qualificati a portare armi. A conferma di questa posizione, egli cita il Lex Pronuntiatio, è un testo chiaro ai difensori della purezza della linea. E questa è una cosa molto interessante. E non ho letto un'analisi di questo Lex, ma è molto importante per tutti i giuristi che vogliono difendere della purezza della loro linea. Non di meno. Egli osserva Spartolo che in Tuscia è una regione che comprendeva grande parte dell'Italia centrale al momento, per consuetudine i bastardi potevano portare armi e che tale consuetudine non poteva essere ripudiata. Ignorando completamente questa nota bartoliana fondata sulla osservazione della prassi, Baldo asserisce che, propriamente parlando, spuri naturali non vengono compresi nel termine casa e che i bastardi non appartengono né alla casa né al gruppo degli agnati. Di conseguenza non possiedono alcun titolo per poter portare le armi e le insegne della casa. Perché tanto le armi che le insegne conferiscono un onore per Baldo, un onore incompatibile con la posizione di questi figli. Per la lettera dei Bati di Perugia, citando le insigni e rammentando che il costume locale non invalidano le disposizioni del rito comune, e uno dei rari riconoscimenti del trattato bartoloniano che abbiamo trovato nella letteratura, giuridica civile. Bartolo non affronta l'argomento delle armi in segni portate dalla donna, cose che esse facevano se ben impiegate. Ci sono delle ragioni che per ritenere che Bartolo non ponga in dubbio il diritto delle donne di portare le armi paterne. Strettamente parlando, la donna è agnata rispetto al padre e infatti troviamo raffigurazioni in cui le donne portano le armi paterne come pure quelle del marito. Nel caso delle alleanze matrimoniali troviamo scudi dimezzati che contengono due emblemi, quello del padre e quello del marito. Il fatto che i figli delle donne non venivano annoverati tra gli agnati del nonno materno, essi non avevano diritto di portare le sue armi. Sebbene Bartolo non abbia elaborato l'argomento della trasmissione delle armi, né nei suoi commentari né nel presente trattato, egli presuppone come la conveniente analogia con l'eredità lascia intravedere che le armi possono essere trasmesse allo stesso modo della tomba di famiglia o di un res religiosa. In conclusione, vorrei sottolineare che una della maggiore caratteristica del trattato è proprio la creazione di una grammatica di segni. Bartolo fu il primo giurista a stabilire dei principi derivanti dal rito romano, da costumi locali, per governare l'assunzione, la protezione, la trasmissione di segni che si estendono dalle armi ai marchi di fabbrica. Bartolo fondando la libera assunzione delle armi e delle insegne nel Jus Gentium e precludendo così alla nobiltà l'avvocarsi l'esclusivo diritto alle armi, si guadagnò la sicura amicizia di questa classe. Questa è la ragione per cui il tema della posizione sociale del portatore di armi gioca un ruolo minimo nella sua grammatica. Data la progressiva aristocratizzazione della società italiana superiore, non sorprende appunto che la concezione bartoloniana dell'uso delle armi in società aperta venisse criticata come sovversiva del nuovo ordine sociale. Il risultato della nostra ricerca, inoltre, rende altamente problematico il fatidico attacco di Valla contro Bartolo. Lorenzo Valla stesso ammette di aver qualche obiezione contro la prima parte della tesi che io ho creato oggi, che noi attribuiamo a Bartolo. Il bersaglio della sua intera inventiva è la seconda parte del trattato che il giurista e Bartolo non compose. Il problema qui non è solo l'insuccesso della perizia filologica di Bartolo nello scoprire la relazione, la poca familiarità con il discorso giuridico medievale o il suo temperamento. La sua inventiva, anziché demolire il Vensini, ha contribuito più di ogni altra cosa a perpetuare l'opinione priva di fondamento che Bartolo fosse l'autore dell'intero trattato, che egli avesse ricevuto le armi dall'imperatore e che egli avesse studiato i brani. L'influenza di Valla nella lettura si continua ad essere enorme. Come valla, molte delle loro si sono concentrate sulla sola esecuzione materiale delle armi a scapito della grammatica e segni. Finalmente. Lusso e busso, benzibis. Nel passato, 600 anni, da parte di giuristi, esperti d'arabo e storici, costituisce un affascinante capitolo nella storia del jus generativa. Giustizia e merita una propria investigazione. Grazie. Ragionevole prudente, se non mette in rapporto molto stretto il trattato dei significa essere con alcuni altri testi dell'ultimo periodo della letteratura, però testi politici. Per lui, cioè, l'interesse prevalente di questi trattati è l'interesse prevalente nel libro di Sinicità, mi sembra un interesse in natura politica, così mi pare interamente, così mi pare si possa vedere nella accezione più ampia del testo. Non solo perché la chiusa del trattato ricorda l'opera di Niccolò d'Alessandro, così come una parte della traduzione manoscritta avviene anche per altri testi, come avviene nel caso di un manoscritto del Girano, che porta una data leggermente diversa, ma anche perché c'è una connessione, c'è un rapporto molto stretto tra i trattati sul riforma di governo, sui partiti politici, sulla piramide, sulle insegne, sulla novità. C'è, credo, un rapporto piuttosto stretto tra quella repetizio che data sulla Lex Sigmund Procontis, codice 12.1, l'unico luogo del libro di raccomandato, e questo caso politico. Il novità, l'unità del Diego, la repetizione, la repetizione proponitis, sembra quasi raccordarsi a perlomeno parte delle esistenze tante, scattante francese. E soprattutto perché in quella repetizione la novità è in realtà concepita come un fatto. Così come per questo è concepito con il fatto politico la cittadinanza, tu l'hai dimostrato nel tuo lavoro sul consiglio Edoardo Diani, la cittadinanza come istituto che al di là della sua origine, negli anni 60, quindi sono i migliori, sono nella posizione di un privilegio, è in realtà originata dal punto 5, comunque è un fatto politico. Così come la proprietà è un fatto politico. Direi che c'è una linea di pensiero che non può non far pensare ad un contesto molto, molto preciso, che è quello della città guelfa di Perugia, che è quello dell'impero comune perugino, insomma, nel periodo della Chiesa, che è quello di un'atmosfera, insomma, di carattere politico, se vogliamo, ideologico, nella quale nasce la buona parte dell'opera di anche della maturità, certamente si tratta di opere incompiute, così come incompiuto è appunto per trattare il testimoniorum a quale tutti i passaggi. Gli interessi di Bartolo per l'ottica, può darsi che quella parte del trattato davvero debba essere scritta in massima parte ad altri. Io ho l'impressione che si debba riflettere ancora un po' prima, non tanto alla tradizione, quanto alle radici di quella parte nel pensiero di Marco. Niccolò d'Alessandro certamente avrà raccolto qualcosa, insomma, di insegnamento del suo uomo. C'è un problema. In realtà il Trattato Testimoniorum è in gran parte un trattato sulle forme della percezione. Testimoniare significa rendere la causa scienza, e ciò che si sa è solo ciò che si è percepito, in un senso. Ciò che il testimone induce a partire da ciò che ha visto, sentito, toccato, non può convincere il giudice, non può essere, non può costituire prova accettata. Il testimone deve limitarsi a riferire ciò che ha visto, sentito, toccato, visto, soprattutto visto. Qui certamente c'è il socio, c'è la voce di Aristotelica, ma non c'è soltanto quello. C'è un libro di Giuliani, ormai è abbastanza vecchio, non c'è più prova. Giuliani lo ha scritto quasi per la voce della enciclopedia del diritto, ma davvero ancora non sappiamo abbastanza della dottrina medievale della testimonianza. Ma con lo stesso dice di principio del trattato, perché il diritto romano regola povera, cioè videa studio delle squadre civili, della diretta, il diritto canonico ha prodotto molto di più, il momento quarto è una grande autorità in proposito, ma nel diritto processuale non esiste ancora una dottrina così definita sulla questione. E anche per un trattato, è un trattato che si legge in una tradizione manoscritta in due o tre forme diverse, risulta frutto di una ricomposizione probabilmente di carte sparse, è un puzzle, è uno dei testi che davvero pongono l'interprete davanti a problemi gravissimi. Tu credo con le cose che ci hai detto fai compiere dei passi avanti notevolissimi alla, diciamo, alla teologia cartoliana, che tuttora hai i suoi primi passi, sia pure importanti. Ricordo anche certe recenti riflessioni che hanno contribuito a distogliere, diciamo, da alcuni dall'affermazione della paternità di alcuni testi che fino adesso hanno circolato sul fenomeno di Marco, il lavoro di Aschieri su Monti a Striga, e da quel punto di vista notevolissimo, fino a due o tre anni fa, il Consiglio sulla strega era anzi uno dei pareri reali più noti e frequentati di Bartolo, forse Bartolo non ha mai scritto quel parere reale. È molto importante sapere di cosa Bartolo ha veramente scritto, forse è ancora più importante sapere di cosa non ha scritto, che per scelta a determinare meglio a determinare meglio i tratti di un'epoca di grande creatività. Sono tante osservazioni, tante piccole cose che vorrei la pena di alcuni che sono chiari. Vuole dire che io con i manoscritti ero a Praga 3-4 giorni fa e ho trovato un manoscritto di qualche trattato, un trattato nell'ufficio del Presidente della Repubblica Ceca, con Opertina, con Fattorione, che forse Havel ha letto, veramente molto interessante. Ricorda, ci sono quattro manoscritti a Praga, ognuno dell'ufficio del Presidente. Forse li sta leggendo ancora. Sì, caro quarto. Caro quarto, è una legna. È una legna. Sì, caro quarto, a Havel. La rimetto il tacco e di il tacco a questo. Una curiosità per profano. I marchi lotterini sono trattati da base? Sì, sì, sì. Ma di parte c'è lotterino. Gli stessi problemi che usano... Sono stati trattati con una modernità linguaggio che suggestiva, davvero si dice a riconsiderare questo testo, perché ovvio non è scritto con un linguaggio né verbale né diciamo, però è davvero modernissimo. C'è una parte che riguarda un arco molto importante, ma quel poco che è stato scritto sul trattato, finora è stato scritto sul trattato, gli storici del diritto, ecco, si sono occupati soprattutto di questo punto. Si può anche leggere per i nostri amici, no? Quello che segna artifici se o pericolo. Si parla di Fabriano, no? C'è quel luogo famoso in cui si parla della carta, perché sono notizie davvero di grande importanza. La suggestione che offre questo testo è dovuta anche a mille riferimenti alla città contemporanea, alla realtà anche, come dicevi, sociale, quindi proprio dei fatti economici legati anche alla cultura, magari parte ossiosa di parte di produzione della carta. Talvolta ci sono dei segni, sono apposti sopra un'opera, ecco, un'opera di arte, segni artifici, seoperizi, bisogna avvertire che ci sono alcuni segni in cui principalmente opera la qualità sdoce, sono legati intimamente alla qualità del luogo. Esempio, la marca d'Ancona c'è un casco nobile, il cui nome è Fabriano, dove vige principalmente l'arte di fare carta stefatino. E ivi sono molti edifici, ad occhio, e questi edifici meteore scarpe corretti. Ci sono delle fabbriche che producono della carta di miglior qualità. Dice Vivi Facia un bonitas. Vivevo squadri per fuori carte su mare simile a il suo mare, però per cosa significava qui i edifici carte, ecco il caso di Marco dico ergo con questo caso ha un illum ragionamento simile ma non si prende un edificio di su di pochi nasce il problema della trasmissione del mare in pratica si veniure proprietaris si vedure condizioni, sentito di curiosità, anche per informazione, si ne può risalire. E ancora si tratta di signa che dimostrano la bonitas artificis che sono legati alla particolare qualità dell'opera, frutto di una particolare qualità del mestiere, come vediamo nei segni che si appongono alle spade, o ai lati, o ad altre opere di metallo. E in questo caso tutti quelli che sono in una stessa stazione possono tutti il mio segno, quasi magistro principale stazione sottolinea. Naturalmente il problema è un problema di grande rilievo perché è legato al problema del ricetto, alla possibilità dell'inganno da parte della frode. Risulta dalla posizione di un marchio che appartiene all'edificio o ad un artefice più grande. No, io in questo mondo veramente esiste, questi segni esiste veramente migliaia, 300, 400 tifoni. E gli storici ora, come io volevo, studiando abbastanza, ma città stata Rotterdam, tutti questi libri, articoli su Mara e famiglie italiane, questo campo non si entra in studi su kinship, secondo me è estremamente importante perché veramente in Italia è difficile dire se poi un figlio che è legittimo, in famiglia veramente ha una linea di vita, eccetera. Questi segni molto importanti, come segni di antichità, segni di informazione, segni di identità, ancora molto. Io vorrei fare una domanda di carattere però molto generale, insomma, per capire se ho capito bene queste cose che per me sono sconosciute. Partirei proprio da questa faccenda ultima dei maghi in fabbrica e delle armi che vengono trattate allo stesso modo, nello stesso quadro. Ecco, a me pare questo particolarmente significativo, cioè che Bartolo esprime una situazione storica in cui parlare della qualità di persone, parlare della qualità di cose, tutto sommato è ancora in qualche modo indistinto, cioè si usa lo stesso tipo di argomentazione, legittimamente, per descrivere mondi che a una mentalità moderna appaiono invece completamente diversi. Ecco, io credo che questo sia un punto, a me a questo punto ha colpito molto, perché evidentemente Bartolo insiste, coglie l'emergenza, il nascere, no? Di interessi che riguardano il mondo della produzione, il mondo materiale, insomma, e ancora è però costretto a usare argomenti per definire degli interessi nuovi di tipo materiale, usa argomenti che sono invece, diciamo così, che provengono da un mondo che è quello della nobiltà, che è quello della definizione della linea, che è quello del nome o dell'arma che una linea ha. Ecco, questo a me sembra interessante per distinguere la mentalità. Ma questa mentalità tra 200 e 300. Ecco, e poi è cambiato molto. Questo capisco, però non è moderno, questo sembra del 300, c'è cioè un grande crisi, no? Questo è banale, un cliché, ma è un momento in cui Bartolo non amava la nobiltà. Bartolo è un uomo per lui, per luce, l'umore di Perugia è un universo, lui non amava la nobiltà. Allora, questa è una mentalità di metà per il 300, e poi si cambia. È ovvio perché quasi tutti i trattati dopo Bartolo, 400, 500, attaccavano Bartolo. Questo modello mercante nobile, allora lui parla, lui medesimo stesso lo dà. Ciò che conta è la nobiltà della città. Sì, così come la potestà della città è più forte della potestà del padre suo figlio, se la nobiltà della città, dunque i popolari, se popolari, se civitati, se devono essere preferiti ai nobili di una città meno nobile. I popolari di Perugia sono molto migliori rispetto ai nobili di una città. Sì, e dopo è... sono ancora a tendenza anche mangiatizi. Principio ricordato più volte perché se un corpo viene una parentesi è nominato a partire da te e il pontefice. E se uno mette te e il pontefice, con il loro se insegne, accanto alle parti di conduzione, allora è una specie di antinobilitarismo che va molto bene per una città, per un comune italiano del 300, non più del 400, del 400, però per Bartolo va benissimo. Per questo non ho capito bene la cosa con l'arma di Bartolo. Il leone con le due code è l'arma del Regno di Boemia. Sì. Carlo IV era re di Boemia. Sì. Secondo Bartolo stesso, un superiore può dare la sua arma a un servitore inferiore. Perché Carlo IV non deve aver fatto questo? Perché Amasero? Sì. Perché se ricordo bene, uno che è il commento della pace di Costanza, Bartolo si orgoglioso di aver avuto dal povero Carlo IV questo incarico di privilegi, ma il riferimento per questo privilegio di questo processo non trovo mai nei altri commenti, solamente sì, senz'altro, Cal 4 ha concesso 4 qualche più invece, senz'altro, questo abbiamo un documento, ma non abbiamo un documento su questo concesso di noi come un direttore, non abbiamo. Lettere di Arn per la metà del Trecento, non so se esistono, sono resi. Ah, c'è la rischio, ma esistono, ma anche un Bartolo ci sono qua, ci sono dozzine del passaggio in cui il Bartolo se descrive i suoi privilegi da imperatore, lui non dice niente. È impossibile che lui non dice questo concesso. Ma io ho scritto in un argomento, forse. Mi sbaglio, non so, ma credo. Altro che vorrei sapere, perché probabilmente non ho capito bene. Lui dice, l'autore di questo trattato dice che abbia imparato l'ebreo, che poi scrive per la discussione della direzione della scrittura da testa a sinistra o da sinistra a destra. Sì, molto bene, è una cosa molto interessante. È di fatto o è di libro? Non è di Bartolo, assolutamente non è di Bartolo. Chi è che ha imparato l'ebreo del Trecento? O non è del Trecento? Dopo sì, ma il Trecento, la parte giuristica, è imparato, abbiamo esaminato tutti i passaggi in cui Bartolo ha trattato ebrei, eccetera. Banale, in posizione sempre Bartolo, ma banale, non è, lui non ha conoscenza ebreo. Sì, senz'altro, cioè, lui ha conosciuto ebrei, ebrei, sì, ebrei, sì, ebraico o non ebraico. Ma quindi, come è venuto questo passo nel non ebraico, ma discesa, come perché nella seconda parte frammenti mi pare non sapevo, non ha una fortuna di trovare l'origine di questo, forse è un miracolo, no? Perché è proprio il problema di destra e sinistra. Sì. Se vuoi in superiorità. Tutti i movimenti cominciano da destra e finiscono da sinistra. Perciò noi ebrei scriviamo più e poi lui dice no, perché cosa scriviamo? Scriviamo per leggere, leggiamo da destra a sinistra del scritto e così il nostro monologo è migliore. Va bene, e questo, però la questione di destra e sinistra occorre anche in un'altra cosa, dove il vestito con una bestia dice la bestia deve sempre avere il piede destro avanti. Però dall'altra parte del vestito è l'altra, come se uno scrive una lettera sul vestito. Da una parte la lettera è giusta e dall'altra parte non è giusta. Così questo problema della destra e della sinistra, scusi, una volta no, sinistra, no, è in due posti diversi. È trattato in modo diverso, anche se è lo stesso problema. Allora sarebbero due altri autori. Ma questa non è una domanda giuridica, è una domanda, un'altra domanda. Anche c'è, conosco che anche Mike Shapiro ha scritto su questa questione di genere. Due articoli, non sigilli, ma con. E qui che il passo è questo, è molto vero, vi devo mettere un circa pedes, con sempre ischi a decere il zip destra. Qui a tutti i precedenti membri di come pass destra è un ciclo. Aria si significa per un figura scena messa, può di indizi un so. Finalmente. È una cosa convenzionale, è una finzione di qualche tipo. appunto il punto, se posso aggiungere una cosa, il punto che lui sottolinea, il punto che lui sottolinea, è quello della affermazione che in Bartolo, che Bartolo fa per la prima volta, insomma, nella letteratura giuridica trecentesca, della liceità della attribuzione delle insegne propria autorità, sua autorità, no? Questo. Perché la ragione è adotta in questo modo, punto codicea, perché sicut nomina inventa sunt reconoscendum omnes, ita insignia ad hoc inventa sunt. Mentre c'è più avanti la sottolineatura della maggior importanza della concessione. Investigo in secondo luogo che cosa rilevi l'avere queste armi ex concessione fisicis. Rispondo molto. Molto. Ecco, perché è maioris mobilitatis. E qui cade l'argomento, casca l'argomento del testamento 45. Ma queste sono armi, in genere. Sì, ma accanto all'affermazione della liceità, dell'attribuzione dell'insegna, c'è anche l'affermazione della maggior novità dell'atto della confessione. Per me allora sono due punti che corrigono anche l'altro. Secondo, tocca il problema della legittimità, cioè tocca il problema di una concezione dei rapporti umani, di vita, sociali, tocca la concezione, una concezione dei rapporti sociali che sono tanto migliori quanto più sono chiari questi rapporti, cioè sono designati, e quanto più questa designazione viene da una novità superiore, cioè da un superiore che la concede. Quindi in questo modo mi pare si entra in una visione dei rapporti sociali all'interno di una comunità che sono più solidi, più, non solo perché sono più evidenti, più chiari, ma anche perché hanno una copertura superiore. Cioè, non lo so se il problema della legittimità insomma, dei rapporti, dei diversi status esistenti all'interno della comunità è toccata da questo passo che tu ora citavi, oppure no. Cioè, se Bartolo attraverso il problema dei segni si pone anche il problema di un ordine migliore, perché più legittimo, nel senso che è più chiaro, e viene dall'alto o comunque viene da un'autorità riconosciuta. Questo è un fatto importante. Se fosse così sarebbe un fatto importante. Così come mi permetto di tornare sulla mia prima domanda. È giusto che voi diciate Bartolo parte da un atteggiamento antinomiliare. Adesso sto molto volgarizzando. D'accordo, questo lo diamo per accettato ed è un fatto importante. Però questo atteggiamento antinomiliare porta per converso a una nobilitazione di ambiti di vita, quelli della produzione materiale, per l'appunto, che fino a quel momento non avevano ricevuto attenzione. Quindi va bene accentuare la dimensione antinomiliare di Bartolo, ma va bene forse anche chiedersi se in questo modo Bartolo è uno tra i primi ad avviare una percezione più degna di tutto il mondo che è il mondo della produzione materiale, se vogliamo dire così, della produzione mercantile, non lo so, cioè il nuovo mondo. Cioè, ecco, a me in questo senso mi chiede, mi stupisce, per me è una sorpresa grandissima. Cioè che in Bartolo, al di là del grande giurista che conosciamo per le vostre studi, eccetera, si possa anche intravedere forse un autore che indirettamente, magari occupandosi di altro, ma che mette al centro della funzione e mobilita, proprio semanticamente, quello che sta per divenire in un modo o nell'altro, che è già nel 400, ma insomma, il nuovo mondo. Sì, sì, sì. Questo per me sarebbe eventualmente un senso di cambio modernità, ma io ragiono non da filologo, bensì da Maria. No, io sono un po' meno d'accordo. Comunque, c'è la realtà quotidiana del comune, che è ricco, che è antimobiliare, che vive in un più o meno perfetto stato di fatto. Perché? Perché esiste letteratura, però non la nuova. E questo temperatura lontano garantisce quello che io direi la sovranità o autonomia del comune di loro di fronte ai suoi vicini. E se ricordo bene il passato, questa cosa della più alta dignità dell'insegne, dell'arma concessa da un superiore, è piuttosto un excursus parlando nel suo modo di tutte queste di tutti questi segni dal re fino alle marchi di fabbrica, mi è venuto in mente, ma può esistere anche uno o l'altro che ha ricevuto l'arma da un re o da un imperatore. E così mette questo passo nel suo trattato. Però non è così che il trattato sia incentrato proprio su questa maggiore autorità fuori della città. No, è una cosa seconda che può capitare. Speriamo che non capiti troppo spesso. E questa è la mia impressione dopo la lettura del mondo. Non so. Lei una volta ha citato dei versi di Schiller. Sì, perché adesso devo partire da una citazione per vedere den Kaiser will man zum Herrn und keinen Herrn zu haben. Vogliono il liberatore come signore e non avere un signore. Non nessuno. Il principio del signore non c'è. Ma mi sembra che sia anche di tutto questo. Questo è il piacere. C'è un punto in cui si parla del fabbro come doctus, anzi doctissimus, axis, è una curiosa espressione, la dottrina di verità di Martinicio. Una domanda esterna, che cosa succede, ma l'insieme di una persona ficta, sì, invece l'identità personale. Ma questo è importante perché se un comune muove la presentazione si manda questo simbolo, non è necessario, ma non è un ufficiale, sempre per gli insegni nelle armi della città o comune. Uguale, e questa è una presentazione per questa persona, che questa è la mia essere. Sì, sì. Sì, sì. No, è veramente io, per esempio, quello là con i colini. Là con i colini. Allora, c'è una cucina di queste armi. È incredibile. E poi si può leggere la vita di Lacco, che è una presentazione, e che lui vuole stare lì, come attore lì, un membro dell'arte giudice in realtà, è un membro di parte guerra, e così via. E questa è una scena simbolica della vita di e potere. No. Ma l'origine di queste cose mi pare in Germania, no? Si comincia veramente perché non si trova nell'età romana, questa invenzione nel Medioevo mi pare in Germania, poi in Francia. Come da un lavoro, scrive su questo testo? No. No. Dal punto di vista iconografico, non c'è nessuna prevalenza, nessuna meditazione o analisi di simboli, no, di queste opere? Un po', sì, sì, sì, sì. E anche fuori questa opera originale ci sono delle studie? Colori, animali, se sì, lui, oppure l'autore, su questo. Ma Valla critica ferocemente è importante, questo è molto importante perché i trattati idraulici in Francia, per esempio, sempre hanno citato questi assi, questi idee di Valla. Di solito non è citato il nome di Bacco, ora è un testo banale, molto importante. Anche trattato in inglese di sì, 1400, da un testo di Cristiano, ma in ogni modo è molto banale perché si usa questo credibilità. Ma schema e colore pazzesco qui, no? Io credo che questo è una simbologia, appunto il loro, il colore di nuovo della temperatura, il blu. Ma non mai parlato sul verde, per esempio, cosa è molto importante. Per esempio. E non mai ovviamente d'oro, e questo è importante perché se Bacco ha scritto questo trattato, la seconda parte, dopo lui doveva scrivere parole sul uso di d'oro, perché è un giurista, anche muore di giurista, quando un funerale, vestito d'oro, questo è un privilegio, è un giurista, e lui mi dice, e si sa perché lui dice. No, io sto pensando che ci sono poi tanti richiami. Bartolo è il primo a comporre un trattato che prevede l'uso di figure sì. E l'uso della geometria del tutto. Per giustificare tutto questo deve riferire in qualche modo un sogno che ha un carattere quasi profetico, comunque deve riferire di un ordine quasi divino che diventa un sogno. E usa i colori, cioè indica nel trattato quali devono essere i colori che debbano indicare certe linee, certe altre. Forse lì si possa individuare anche i trattati sui colori in pittura, credo siano già presenti pur nel 300. Sì, sì. Quindi il problema, cioè, immagino che non sia difficile, anche la filosofica. A un certo momento si dice un passaggio, ut agunt philosophi videre est pati. E poi c'era anche il precedente libro. Sì. Tutti i precedenti libro, che cos'è? Precedente scriva di un papà. Ora tanti manoscritti non si trovano, non si trova. In arte si può la risposta. Ah, sì, deformazioni del corrotere, dei tali da invernare, poi ce n'è più una in questi trattati. Ricordi quella citazione davvero. Tale da scoraggiare chiunque a fornire l'interpretazione di una lex nova di Rosa, che è un altro rendere il gruppo sempre, il gruppo sintetizzante, il nome Enricus è diventato Enricus, poi Teodoricus, poi Teodosius, questi testi sono pieni di trocche, sono davvero l'edizione quando uscirà è un po' e poi si blocca l'apparato, mi pare che sia già, no? Ho visto che c'è l'esclusione di una parte dei manoscritti, in base a quale operazione. Ci sono molti manoscritti che sono sicuramente dei descritti. Dunque questi sono esclusi come è tipo umanistiche in modo credo. Quale manoscritti non ho visto che una parte dei manoscritti è considerata ma non inserita così nell'apparato critico del testo. Perché sono descritti, descritti. E dunque in un margine scattivo. Sì, molti sono i Vaticani. Il migliore è Munch, il migliore no, è il migliore. Si trovano quattro decine. Quattro decine. Quattro decine. Il primo mi pare. Il 2600. No, perché è più. E il. Ah sì, il 800. Sono. Le 15. Non è. Non ci è stato conservato nessun manoscritto del secolo XIV, no, perché questo vuole dire. Morrendo di sì, ma sono dette Madrid, ma anche stavo aspettando. No, può essere benissimo un medesimo, anche se antico, in base alla nostra legge, ma quasi più. Grazie.